24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 38 secondi inizia questa terza parte di 24 Mattino di mercoledì 3 giugno. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Volevo cominciare con una notazione che non è legata ad articoli che si leggono, ma a una comunicazione pubblicitaria che è spuntata questa mattina su molti quotidiani italiani e che fa riferimento a un prodotto naturale per combattere l'ansia e la scarsità di sonno. Il fatto che sia comparsa su tutti i quotidiani, una bella pagina, mi incuriosisce, perché proprio qui, no, a 24 Mattino abbiamo avuto ospite uno psicologo che raccontava dei disagi post-Covid, e dunque mi pare che deve esserci una richiesta di mercato di prodotti naturali per dormire, per non essere colti dall'ansia. È un dato sul quale converrà riflettere, passando alle cose di controllo del tracciamento. Abbiamo letto che l'app Immuni, che ora è disponibile, è stata scaricata da più di 500.000 italiani, è l'app più scaricata del momento, e per una volta quindi diciamo che dovremmo essere abbastanza disponibili al controllo. Gli italiani bisogna vedere se la useranno o se semplicemente l'hanno scaricata per vedere l'hanno com'è. L'hanno scaricata, il gesto di scaricarla è già un'intenzione, mentre in Gran Bretagna ci sono molte polemiche perché il sistema che hanno usato lì, che sembra essere teoricamente più tutelante della privacy, perché hanno assunto 25.000 persone che devono tracciare i contagiati e avvisarli e avvisare tutti quelli che sono stati in contatto con loro. Ma la polemica è che molti di questi 25.000 che sono stati assunti non hanno niente da fare. E dunque, la polemica sul denaro speso in vano. Allora, l'Italia è ripartita, ne volete una testimonianza? Avete sentito quanto è stato lungo il collegamento con il traffico alle 8:15? Code dappertutto verso Genova, sulle tangenziali milanesi. Insomma, si riparte. Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, buongiorno, come sta? Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tutto bene, sì. È stata sbagliato ieri la manifestazione, troppo assembramento, troppa folla? In testa al corteo certamente c'erano 200-300 giornalisti, c'era la folla che veniva dalla manifestazione di Piazza Venezia, dove erano sfrecciate in cielo le frecce tricolori, quindi c'è stata calca. Abbiamo cercato in tutti i modi di far rispettare le regole. Per quanto mi riguarda, la mascherina l'abbiamo sempre utilizzata, la presenza di Forza Italia è stata simbolica, avevamo addirittura lanciato un appello a non partecipare alla manifestazione perché doveva essere simbolica. Sono stata in tutta Italia, è ovvio che da qualche parte qualcuno si sarà calcato, però se guardiamo dall'alto attraverso le immagini anche pubblicate, trasmesse dalle televisioni, lungo tutto lo striscione che era un grande tricolore, non c'erano simboli di partito, le distanze erano rispettate. Però Tajani, a parte le distanze, lei faceva riferimento ai simboli. Ora, se c'è un simbolo in questo paese che sta funzionando è il presidente della Repubblica Mattarella, che ieri era a Codogno e che ha invitato le opposizioni e i partiti di governo a lavorare insieme, perché di fronte agli esiti dell'epidemia questo paese diviso non ce la fa. Nella manifestazione sono arrivati insulti a Mattarella. Lei prende le distanze da questi insulti o li condivide? Intanto rispondo subito alla seconda domanda. Da quanto risulta, un conto sono i gilet arancioni, che non hanno nulla a che vedere né con Forza Italia né con il centrodestra, quindi le polemiche sono state soprattutto durante quella manifestazione. Pare, dice qualcuno, che durante la riunione a Piazza del Popolo qualcuno abbia offeso il capo dello Stato. L'abbiamo detto immediatamente, le offese nei confronti di Mattarella sono indegne, quindi non neanche si discute su questo argomento, anzi noi abbiamo sempre risposto positivamente all'appello del capo dello Stato all'unità, unità che non significa confusione di ruoli, ma unità di intenti per cercare di far uscire l'Italia dal momento difficile. Lo abbiamo fatto fin dall'inizio, Forza Italia è sempre stata disponibile, abbiamo partecipato a tutte le riunioni con il governo, con la maggioranza, abbiamo dato la nostra massima disponibilità a togliere qualsiasi atteggiamento che potesse apparire ostruzionistico, però poi la maggioranza ogni volta ha posto un no. Il governo ha posto sempre la fiducia, non sono mai stati accolti i nostri emendamenti. Nonostante questo, l'altro giorno abbiamo ribadito il nostro sì all'appello del capo dello Stato, e quest'oggi c'è un articolo molto chiaro anche del leader di Forza Italia Berlusconi sul Corriere della Sera, ma l'abbiamo ripetuto fin dall'altro ieri e durante tutta la manifestazione, che noi vogliamo collaborare con il Paese mantenendo distanti i ruoli. L'ho ribadito anche questa mattina io in intervista al Messaggero, dicendo alla luce del sole noi siamo pronti a lavorare per realizzare le grandi riforme che servono al Paese, ma che servono anche per avere tutti i fondi europei, dalla riforma del fisco, da quella del mercato del lavoro, quella della sanità, e serviranno i soldi del MES, a quella della giustizia, sono due punti del PIL che perdiamo ogni anno a causa della lentezza della giustizia civile, lasciamo perdere poi tutto quello che abbiamo letto sui giornali per quanto riguarda la giustizia penale. E lei non sa quanti punti di PIL perdiamo per la formazione dei nostri giovani, che non viene curata bene da decenni. Ma assolutamente. Però non ne parla nessuno di formazione, Beh no, innovazione, ricerca, no, formazione, da commissario europeo ho lavorato tantissimo per dar vita anche alla formazione di uno spirito imprenditoriale nei giovani. Erasmus è un grande messaggio che arriva dall'Europa, per un europeista come me si sfonda una porta aperta. Siamo stati gli unici a parlare di start-up, le start-up sono lo strumento imprenditoriale che i giovani più utilizzano per mettere in risalto le loro capacità di intraprendere, e il governo li aveva dimenticati. Noi ci siamo battuti per fare in modo che le start-up fossero parte di un disegno più ampio, quindi c'è molto innovazione, ricerca, digitale, le sfide del futuro, questo sono le nuove generazioni, perché noi abbiamo sostenuto e ci siamo battuti per il recovery fund, cioè il progetto per la rinascita dell'Europa, ma che riguarda anche le nuove generazioni, così è stato poi ribattezzato. E allora lì noi abbiamo detto lavoriamo insieme, perché per prendere quei fondi cosa serve? Serve avere dei progetti, serve avere delle riforme serie, e queste bisogna scrivere in Parlamento, maggioranza, opposizione, ascoltando tutte le categorie produttive che l'altro giorno hanno lanciato un grido di dolore, direi più che di dolore, di disperazione rispetto a quello che sta accadendo. Tajani, proprio sul fronte europeo mi sembra che si fatichi un po' a leggere il motivo per il quale state insieme a Fratelli d'Italia e alla Lega, nel senso che avete delle visioni molto differenti tanto sull'Europa quanto sul futuro dell'Europa e sugli strumenti da utilizzare. Parlo del MES, parlo del fatto che oggettivamente dei passi avanti importanti, e lei lo riconoscerà che tanto tempo è stato in Europa, ne sono stati fatti, il Recovery Fund ne è un esempio, e ne è un esempio anche di un passo avanti politico, no? Molto forte, e questo mi sembra che sia chiaro a tutti, poi vedremo come finirà la trattativa. Insomma, ieri avete manifestato insieme, e però oggettivamente mi pare che sotto questo aspetto le visioni siano radicalmente differenti. Beh, due risposte. Il Recovery Fund è frutto del lavoro soprattutto della famiglia del Partito Popolare Europeo, della quale noi facciamo parte, della quale siamo protagonisti. Qualcuno ci rimproverò, votaste contro gli Eurobond. Gli Eurobond era un emendamento che doveva bloccare di fatto a far saltare l'accordo sul Recovery Fund, e invece noi sapevamo bene che era strumentale e votammo contro quell'emendamento per il Recovery Fund. Quindi sappiamo bene che questa è una strategia secondo noi vincente, che adesso dobbiamo portare a casa. Sì, però mi scioglie questo tema della contraddizione, Tajani, per favore. Concludo. però se non si parte da questo. Noi abbiamo una visione molto chiara, siamo parte della famiglia del Partito Popolare Europeo. Abbiamo sempre detto che il centrodestra non è un partito unico, è una coalizione che ha le proprie differenze, che ha le proprie identità. Noi abbiamo la nostra, ci rivolgiamo all'elettorato diverso, ma con il sistema maggioritario bisogna dar vita a delle coalizioni. Ci saranno elezioni regionali e ci saranno delle coalizioni di centrodestra, di centrosinistra. Quindi al governo ci sono quattro sinistre diverse che dicono quattro cose diverse, anche il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico che sono al governo assieme dicono uno l'esatto contrario dell'altro. Quindi questo fa parte del nostro sistema elettorale. Poi quando dobbiamo combattere contro la pressione fiscale, per la centralità della persona, contro la burocrazia, c'è un minimo comune denominatore che unisce. Per quanto riguarda l'Europa abbiamo posizioni diverse. Noi siamo europeisti, siamo parte della famiglia popolare, ma la Meloni è parte del gruppo conservatore, Salvini fa parte di un altro gruppo politico ancora. Senta, a proposito di pressione fiscale, mi scusi, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha accennato al fatto che i soldi in arrivo dall'Europa, se e quando arriveranno, potrebbero essere utilizzati per ridurre le tasse, cosa che non sembra assolutamente possibile, non mi pare che l'Europa ce lo dia per questo. Lei pensa che la proposta che ha avanzato il ministro Di Maio debba essere presa in considerazione o respinta in assoluto? No, non si possono ridurre le tasse con i soldi che devono arrivare dall'Europa, devono servire per fare altre cose, per fare soprattutto delle riforme, alcuni serviranno come quelle del SURE per pagare la cassa integrazione, altre per fare investimenti in infrastrutture, quelli della BEIRA. Se poi da tutto questo lavoro, dalla riforma anche del sistema fiscale, poi arriverà una riduzione della tasse, questa è una conseguenza, ma non si potranno usare quei soldi per non far pagare le tasse. Anche perché quelli sono una tantum, Tajani, anche perché quelli sono una tantum e le tasse le devi ridurre. Berlusconi propone la flat tax da anni, anni e anni, non è una invenzione degli ultimi mesi. E sappiamo bene che la chiave è questa, in un regime di economia di libero mercato, meglio di economia sociale di mercato, la riduzione della pressione fiscale serve a far crescere le entrate nelle casse dello Stato e quindi permettere più servizi soprattutto ai cittadini che sono meno abbienti. Cottarelli dice che la cosa che fa crescere anche l'occupazione e la produttività è la riduzione dell'evasione fiscale, tema infinito, però non voglio portarla su questo. L'evasione fiscale si riduce anche se si abbassa la pressione fiscale, poi certo che servono i controlli, grande considerazione. Volevo chiederle, senta, ma lei ha parlato di elezioni regionali, molti presidenti di regione, segnatamente Zaia del Veneto, volevano andare a votare il prima possibile, ma non è stato così, pare che il governo abbia deciso di far votare alla fine di settembre con problemi aperti con le scuole, quindi facciamo ritardare ulteriormente l'ingresso nelle scuole ai nostri ragazzi. Ma perché non si può andare a votare prima, secondo lei? In Francia vanno a votare per il secondo turno delle amministrative il 28 giugno e anche loro hanno avuto un sacco di problemi di morti e di contagi con il virus. Ma perché serve il tempo necessario? Abbiamo un sistema diverso noi rispetto alla Francia, abbiamo tre elezioni diverse, ricordiamolo, elezioni amministrative locali, amministrazioni regionali e il referendum, quindi saranno molte persone che dovranno andare a votare, quindi bisognerà accorpare questi tre eventi elettorali, quindi non si può organizzare, mentre ancora non si sa che cosa succede in questa fase particolare, come si fa la campagna elettorale. E naturalmente i cittadini devono essere informati, si fa solo in televisione o ci può essere anche un contatto diverso? Bisogna farla mentre la gente comincia ad andare sulla spiaggia, perché c'è grande voglia di andare in vacanza, sia pure nel rispetto delle regole. Allora forse è meglio farla la campagna elettorale alla fine dell'estate e far votare alla fine di settembre, che sembra la cosa più ragionevole, anche per non danneggiare il mondo del turismo che ha sofferto moltissimo. Tutte le organizzazioni di imprenditori piccoli, medi, piccolissimi del settore del turismo chiedono di non far svolgere le elezioni mentre è in corso la stagione turistica. Bisogna farlo alla fine, dobbiamo anche dare respiro a chi vive un momento di enorme difficoltà. Il turismo è il settore che soffre di più in questo momento. Quindi, quando parlo di turismo parlo anche di bar, di ristorazione. Certo, di tutti quanti. È chiarissimo, Tajani. Senta, lei è d'accordo sul fatto di non far svolgere le lezioni nelle scuole? Perché abbia pazienza, noi veniamo da 3 mesi di lockdown, i ragazzi non entrano in classe da parecchio tempo. A settembre non si sa come rientreremo, perché un giorno sentiamo che rientreranno metà in digitale e metà dal vivo, un altro giorno no, rientrano tutti in classe, un altro giorno non riusciamo a organizzarci e non si sa. Detto ciò, se ricominciamo le scuole, facciamo ripartire le scuole e 10 giorni dopo chiudono perché si vota, insomma, capisce, diventa un problema. Sì, beh, è devastante. Da qualche parte bisogna votare, non è che possiamo abolire la democrazia, bisognerà trovare degli edifici dove poter votare. Se ci sono delle alternative, il Ministero dell'Interno troverà le alternative, ma non è che possiamo abolire la democrazia. Ricordiamo che il voto è lo strumento massimo di espressione. Lei sarebbe d'accordo a trovare altri edifici, cioè se si riesce naturalmente, nell'ambito delle Ministero dell'Interno, non è obbligatorio votare in una scuola o da un'altra parte. Se ci sono dei luoghi diversi, i cittadini andranno a votare nei seggi elettorali o loro indicati. Serve tutta un'attività organizzativa, perché voi sapete, su ogni scheda elettorale c'è il luogo dove ciascuno deve andare a votare, quindi bisogna rinformare tutti i cittadini di dove dover riandare a votare se si cambia il seggio. Quindi ogni cittadino italiano dovrebbe essere informato. Visto che è stato rinviato a fine settembre, probabilmente c'è il tempo. Quello che stiamo dicendo con Simone Spezia e anch'io, Tajani, è che un paese ha bisogno di un messaggio chiaro che dica: la scuola è importante. Ne abbiamo fatto a meno per 3 mesi, perché il lavoro a distanza serve fino a un certo punto, adesso non le chiudiamo di nuovo. È anche una questione di messaggio. In Gran Bretagna hanno deciso di aprire le scuole e di non riaprire i pub. I messaggi contano. Attenzione, le elezioni non sono un pub. Votare. Ho capito, ma si possono fare in altri luoghi o no? Se lo Stato trova altri luoghi e riesce a informare tutti i cittadini ad andare a votare, nulla osta. Poi si dovrebbe votare la domenica e il lunedì mattina, quindi si perderebbe mezza giornata di scuola. È vero, c'è il sabato, in genere il sabato. Come sa, c'è la preparazione, dal sabato mattina al martedì. Si perderebbe 2 giorni, ma questo, ripeto, sono i costi. Dice giustamente, ne abbiamo persi 3 mesi, che saranno mai 2 giorni di più? No, la democrazia, ormai. Non possiamo impedire la democrazia o chiudere la democrazia perché bisogna chiudere altri 2 giorni la scuola. Se ci sono altre sedi, se i cittadini possono essere informati, perché ripeto, bisogna informare ogni cittadino, perché ogni cittadino sa dove deve andare a votare. Sul certificato elettorale di ciascuno di noi, sulla scheda elettorale c'è il seggio, cioè ognuno di noi vota sempre nello stesso seggio, nello stesso scolastico. Certo, quindi certo, bisogna rinformare gli elettori e dire loro dove devono andare a votare. Sì. Vedremo un po', magari rivolgeremo la domanda appunto al ministro, a qualcuno del Ministero dell'Interno, se vorrà venire, la ministra Lamorgese o altri. Il Ministero dell'Interno, l'importante è che si voti e che ci sia democrazia nel nostro paese. Già c'è. Ci sono dei governi che non sono eletti direttamente dal popolo, quindi quello per costituzione, insomma, non è che tocca cambiare la costituzione se vogliamo un governo eletto dal popolo. No, Berlusconi venne eletto direttamente perché si sapeva già chi era il presidente del Consiglio. Ha vinto il centrodestra, poi c'è stato un accordo Lega Movimento 5 Stelle, c'è stato il presidente Conte, poi. Presidente del Consiglio se, quando mai, si andrà a votare per le politiche vincesse il centrodestra? Lo indicherà la forza che prenderà più voti quando si voterà. E quindi vedremo. Grazie Antonio Tajani per essere stato con noi, vicepresidente di Forza Italia. Buona giornata. Una pausa e poi parliamo con Antonio Patuelli, il presidente dell'ABI. Il tema qual è? Ovviamente, ragazzi, è la liquidità. La liquidità arriva, non arriva? Che problemi stanno facendo le banche? Che problemi arrivano dai provvedimenti governativi? Lo sapete tra l'altro che il decreto liquidità è legge, perché è un decreto legge, però lo stanno modificando in Parlamento e non è ancora stato approvato dal Senato. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per la tua impresa. Mattino. Bentornato ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Patuelli, eccoci, buongiorno. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Mi fa iniziare, mi faccia iniziare un po' brutale. Le leggo due messaggi che ci sono arrivati stamattina dagli ascoltatori. Non cito i nomi delle banche, sono due banche diverse, però si sappia. Un ascoltatore che dice: fatto domanda il 18 maggio per il finanziamento fino a 25.000 euro, fino ad oggi non ho ricevuto nessun segnale. Un mese e mezzo dalla richiesta per i 25.000, neanche una risposta. C'è un tema che riguarda i vostri associati, Patuelli, e i meccanismi innescati o che si volevano innescare con il decreto liquidità? Oh, guardi, sicuramente ci sono dei problemi, non nego l'evidenza, ma vorrei specificare che io non sono il capo della vigilanza né europea né italiana. Io non ho nessun elemento di controllo e di vigilanza, né di indirizzo gestione né di repressione sulle banche. Peraltro ho sotto mano la relazione del governatore, la relazione annuale del 29 maggio venerdì scorso, pagina 19, dove il governatore scrive, fra l'altro, in assenza di esplicite previsioni normative, le banche che omettono la valutazione del merito di credito si espongono al rischio di commettere reati. E poi va avanti. È il tema che ci siamo detti l'altra volta, Patuelli, che non è ancora stato risolto, diciamo. Allora, mi scusi, Presidente, mi permetta di metterle... Sì, scusi, mi permetta di metterle sotto... sotto gli occhi delle cifre, però, no? Perché è chiaro, no, che uno dei problemi... Mi ha fatto una domanda poco fa, prima che lei interloquisse, in sostanza. Prego. Mi ha chiesto adesso se i problemi non erano risolti. Saranno risolti quando l'emendamento concordato e approvato alla Camera, che deve essere ancora approvato dal Senato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di conseguenza da quel momento entrerà in vigore e quindi ci saranno delle procedure semplificate con assunzioni di responsabilità da parte di chi le ha. Maria, prego. Quindi, se capisco bene, Presidente Patuelli, un freno al fatto che le aziende possano ricevere i fondi che richiedono sta nelle responsabilità legali imposte ai funzionari di banca nei casi di insolvenza? Però certo, c'è anche un altro aspetto. In molti denunciano che le banche inducono le imprese a rimborsare vecchi prestiti non garantiti, no, questo, per questo sostituirli con quelli garantiti dallo Stato. Questo non è corretto, e tant'è che l'Associazione Bancaria Italiana con grande tempestività ha specificato che questa sostituzione non può avvenire. C'è una possibilità in altro articolo del decreto di liquidità di effettuare delle ristrutturazioni a richiesta, sottolineo richiesta, del cliente, con un aumento di prestiti di almeno il 10%. La norma, nella sua complessità, è ampia, per essere precisi, e dà molte possibilità. Il problema è che va applicata in combinato disposto con tutte le complesse normative antecedenti, e la semplificazione che sta arrivando deve ancora entrare in vigore, e lo entrerà, immagino, attorno al 7-8, fa una settimanetta, appena andrà in Gazzetta Ufficiale. Ascolti, Patuelli, ho l'impressione che complessivamente ci troviamo di fronte a delle norme, ci troviamo a riparlarne perché, come dicevamo prima, il decreto liquidità è in fase di modifica alla Camera, adesso deve, è passato alla Camera, ha ricevuto anche la fiducia alla Camera, adesso passerà al Senato, deve essere convertito entro il 7 giugno, quindi se tutto va bene entro 4 giorni dovrebbe, insomma, uscire in Gazzetta Ufficiale. Ha delle norme che non sono state scritte benissimo, detta ma proprio non le scrivo mica io, eh? No, ma infatti, ma le sto chiedendo un giudizio, non le, è chiaro che non le scrive lei, ovvio, le scrive il legislatore, appunto, e le sto chiedendo un giudizio, è questo. Le dico subito, quando vi è un incendio, e il coronavirus è stato, ed è ancora, ma è stato soprattutto un grande incendio, io sono dell'avviso che bisogna correre con i secchi a spegnerlo, e io non ho fatto polemiche, perché quando c'è un incendio le polemiche rallentano lo spegnimento dell'incendio, e di conseguenza dall'inizio del coronavirus, anzi da prima dell'inizio, perché già ancora il 27 di febbraio, quando non c'erano provvedimenti di lockdown, non c'era nulla di tutto questo, riunì d'urgenza il comitato di presidenza dell'Associazione Bancaria Italiana, che deliberò e fece anche un comunicato che trovate facilmente, in cui noi avviavamo una moratoria di iniziativa ABI, che abbiamo concluso con Confindustria e tutte le altre associazioni di categoria il giorno 6 di marzo, quindi molto prima del decreto 17 marzo, che fece un'altra moratoria che quella di Stato. Per cui mi sono preso un indirizzo di essere costruttivo, anticiclico, proattivo e non polemico. Questo è l'indirizzo, perché finché c'è l'incendio bisogna lavorare perché l'incendio venga spento. Lei è molto pragmatico, e questo credo che sia una cosa utile anche per i tanti imprenditori, piccoli e grandi, che ci stanno ascoltando e si chiedono appunto che ne sarà dei prestiti che hanno richiesto. Io la porto su un tema più generale, ma altrettanto importante per chi ha a che fare con le banche, vale a dire l'italianità dei nostri istituti bancari. Lei avrà letto che il Copasir ha richiesto una serie di audizioni proprio per capire in che direzione si sta andando, sia sul fronte degli istituti bancari che su quello delle assicurazioni. C'è grande dibattito intorno alle mosse dell'industriale Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, che attraverso la sua società finanziaria Delfin sta puntando al 20% di Mediobanca e la principale banca d'affari italiana. La domanda è, lei è le sembra utile questa convocazione del Copasir ai vertici delle più grandi banche italiane per capire meglio i loro percorsi futuri? Guardi, io cerco di leggere tutto, e di conseguenza il Copasir ha delle responsabilità istituzionali che sono proprio le sue, e antecedentemente aveva audito anche delle autorità di pubblica sicurezza, diciamo così, che una volta si chiamavano i capi dei servizi, per quello che ho letto. E di conseguenza, se il Copasir fa degli approfondimenti, fa parte delle sue competenze istituzionali. Io che sono il presidente dell'associazione bancaria e ne sono il principale garante della sua indipendenza dell'ABI, dico solo quello che ho detto nelle relazioni degli anni passati all'Assemblea dell'ABI, che l'Italia è stata finora il paese più aperto di quelli dell'Unione Europea agli investimenti da qualsiasi parte provenienti nel mondo bancario e finanziario italiano. Io sono per regole comuni dell'Europa, non per una Europa che va a diverse velocità con normative differenti. Considero le normative differenti e confliggenti dell'Unione Europea una contraddizione, e ritengo che il lavoro del Copasir possa essere un approfondimento istituzionale, parlamentare, generale e astratto, che può essere utile, come ritengo utile tutti i lavori parlamentari. Senta, Presidente, vorrei tornare sull'argomento di prima, nel senso che io comprendo perfettamente che lei in questa fase, nella fase nella quale l'incendio è ancora acceso, o comunque lo stiamo spegnendo, o c'è il rischio che il fuoco covi sotto la cenere, mettiamola come vogliamo, insomma le metafore possono essere infinite, lei non voglia sollevare polemiche, infatti questo non le chiediamo. Quello che le chiediamo però è di riuscire a comprendere se sono stati fatti degli errori, semplicemente perché questi errori poi devono essere corretti per consentire un buon funzionamento dell'economia e il passaggio della liquidità nelle casse delle imprese e dei cittadini. E il tema era esattamente questo, capisce? La domanda era questo riferita. Bene, la seguo e la ringrazio. Senta, l'Italia si è affacciata al febbraio del 2020, inizio dei sintomi della pandemia visibili, con una situazione di bilancio pubblico che si è appesantita ininterrottamente dal 1967, cioè da 53 anni il debito pubblico è ininterrottamente cresciuto. È chiaro che nessuno prevedeva la pandemia, ma entrare in una situazione di questo genere, che è di carattere sanitario, non è una crisi che nasce finanziaria questa, a differenza di quella del 2008-2011, entrare con un debito che già prima della pandemia era così ingente, chiaramente non è stato un elemento di comodità, sia per i gestori della finanza pubblica, sia per tutti gli operatori economici. È chiaro che è stata molto più semplice la gestione della finanza pubblica, per esempio in Germania, che è entrata in pandemia senza un altrettanto forte gravame di debito pubblico. E di conseguenza io ho capito la logica delle istituzioni, ovvero sia non vi erano risorse da distribuire immediatamente, è stata inventata questo meccanismo delle garanzie su anticipazioni di liquidità. Perché è stato inventato? È perché costava meno allo Stato e in più perché le garanzie al di sopra dei 25.000 euro producono delle commissioni per chi lo dà, Medio Credito Centrale e SACE. E anche per scaricare un po' su di voi la responsabilità, Patuelli, adesso la dico maligna. Guardi, io ho cercato di fare un fioretto nella settimana santa e dato che il decreto è uscito nella settimana santa, i fioretti della settimana santa sono ancor più, penso, compresi. Perpetui, quindi, sono fioretti perpetui. E quindi, senta, perpetuo, però è un fioretto. Tutto abbiamo fatto l'ascensione, dobbiamo andare ancora a qualche altra festa di completamento. Mi aiuti a capire? Credo che si possa fare un esempio semplice proprio con un paese che come l'Italia ha serie difficoltà. Non guardiamo adesso alla Germania che appunto, come diceva lei, non ha il nostro debito pubblico, ma guardiamo anche alla Spagna che è in situazioni non dissimili dalla nostra. Allora, in Spagna l'incremento che dalle banche è arrivato alle richieste di crediti nel periodo appunto del coronavirus è stato di 33 miliardi, mentre in Italia in quello stesso periodo è cresciuto di appena 23 miliardi. Questo perché? Perché le banche spagnole hanno meno lacci e lacciuoli di quelle che si sono imposti, autoimposti le banche italiane? Solo per capire. Guardi, noi venivamo da, fino a febbraio compreso, da una fase nella quale le famiglie chiedevano e ottenevano più prestiti, sempre più prestiti, soprattutto per mutui, mentre le imprese investivano leggermente di meno a prestito e utilizzavano più fondi di liquidità che avevano, si diceva che il cavallo non beveva, questi fino a febbraio, ma poi non è la prima volta che il cavallo non bevesse, la formula del cavallo non beve è degli anni 60, dell'epoca del grande governatore Carli. Poi abbiamo visto invece nei mesi successivi, marzo, aprile, dati pubblici, Banca d'Italia e anche ABI, assolutamente convergenti, che i prestiti alle imprese hanno ricominciato ad incrementarsi, non per lo 0, e questo non solo per quelli che sono gli anticipi di liquidità, che chiaramente non sono partiti. Abbiamo ancora 20 secondi. Obbedisco, e di conseguenza io darei una valutazione a giugno. La valutazione a giugno è una valutazione non fotografica, ma un pochettino più di respiro e di possibilità di esprimere dei giudizi compiuti. Vedremo dei risultati diversi. Grazie Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, per essere stato con noi. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. Ciao a tutti. Ciao.